volare nel buio assoluto. Via dagli occhi del mondo e dalla coda degli occhi miei. Guardami ancora un po', guardami ancora un po', perché il silenzio comincia a gelare quel fiume di parole danzanti. Tra il vuoto e le ortiche, tra i sorrisi e la malinconia, fumi come ancora un po', parli come ancora un po'. Come ancora un po'.